Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'Europa è immobile e non all'altezza di grandi sfide, dice Renzi in Parlamento. Sui migranti il governo ha fallito, dicono i 5 Stelle. L'Italia è la nostra priorità, riferisce intanto la Guardia di Frontiera Europea, supporto a Roma per i rimpatri. Da oggi i comuni riuniti per parlare anche di profughi. Sale la tensione tra Russia ed Europa e Stati Uniti ed è scontro tra Iraq e Turchia dopo l'annuncio di Erdogan sull'offensiva su Mosul. Uccise la moglie e bruciò il corpo. Il pubblico ministero chiede uno sconto di pena perché, dice, lei era violenta. L'appello ai 90 genitori per una scuola senza compiti. A Varese ci stanno pensando, le firme consegnate al sindaco. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it per le vostre email con critiche, suggerimenti e se volete anche qualche idea su temi che possiamo trattare in trasmissione che arrivano dal vostro territorio, la nostra parte dedicata al giro per l'Italia. Iniziamo con le notizie di oggi come sempre. In apertura l'intervento del Presidente del Consiglio di questa mattina, Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. C'è un'Europa al bivio, impantanata e vittima di un frenetico immobilismo, così Renzi dinanzi alla Camera in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Il Premier torna dunque ad attaccare l'Europa dopo le aspettative deluse dei vertici, ultimo quello di Bratislava, che avrebbe dovuto ridisegnare il futuro politico dell'Unione nel dopo Brexit. Allora sentiamo questo passaggio. Abbiamo dovuto registrare come questo frenetico immobilismo portasse poco più che a niente. Un documento molto banale, una sorta di somma di tanti riassunti, un elenco di buone promesse assolutamente non all'altezza della grande sfida lanciata dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Duro attacco poi nei confronti di quei paesi che da mesi si oppongono alla redistribuzione dei migranti. L'Italia, avverte Renzi, si farà promotrice di una durissima posizione nei loro confronti per rivedere i finanziamenti del bilancio europeo. Il Premier ha quindi difeso la scelta di escludere dal patto di stabilità le spese per la ricostruzione post-sisma, definendo allucinante ogni polemica su questo tema e ha rivendicato i risultati sui conti pubblici. Siamo il paese con la rotta di discesa del deficit più significativa. Mentre spesso i giudizi di Bruxelles, ha detto, suscitano psicodrammi. Sentiamo. Soltanto in Italia le considerazioni che vengono dall'Unione Europea occupano pagine intere di giornali, mentre altri paesi sono molto più abituati a ricevere e accogliere i suggerimenti e poi a fare come meglio credono. Poi il Premier è tornato sul tema bancario. Penso che Montepaschi e le altre banche avranno un futuro. L'obiettivo è che nessun risparmiatore perda i propri denari in futuro. Un clima ad un certo punto piuttosto movimentato in aula, con l'opposizione all'attacco su vari fronti, tra cui il referendum. Chi parla di dittatura, ha replicato il Premier, insulta l'Italia. È democrazia, nonostante voi. E da Roma è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Ovviamente nel dibattito parlamentare prima del Consiglio europeo ha parlato anche l'opposizione. Facciamo un punto su questo e anche sul resto della giornata politica con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Opposizioni che hanno colto l'occasione del dibattito sul Consiglio europeo per attaccare a testa bassa il governo e il Presidente del Consiglio Renzi, dal peso dell'Italia a Bruxelles al referendum sulle riforme del prossimo 4 dicembre, dalle banche in generale al particolare di Monte dei Paschi di Siena. Si è accorto solo ora che questa Europa non ha ambizioni, ha detto allora Brunetta al Premier, e il tema è la sua credibilità, ha affermato l'esponente di Forza Italia. Sentiamo questo passaggio. Il tema, vede, signor Presidente del Consiglio, è la sua credibilità, la credibilità sua e dell'Italia che lei rappresenta. La credibilità sua e del suo governo in questa delicatissima, su questo ha ragione, fase storica in Europa e nel mondo. Non esiste democrazia in Europa, ha detto quindi dal Movimento 5 Stelle di Battista. Banche d'affari e lobby internazionali, ha aggiunto, impongono leggi e riforme costituzionali al nostro paese. Sui migranti il governo ha fallito. Della necessità di riforme condivise ha parlato quindi Scotto, Sinistra Italiana. Ascoltiamo. Questo è il punto della discussione che attraverserà il paese nei prossimi mesi. Le costituzioni nascono innanzitutto su un principio fondamentale: difendere le minoranze dall'arbitrio delle maggioranze. Legge elettorale, minoranza Dem, infine quello della Commissione PD sull'Italicum, è un tentativo serio, con questo spirito partecipiamo, dice Cuperlo. Siamo in commissione, ma è giusto mantenere un po' di scetticismo, commenta Bersani. È tutto, linea allo studio. Dunque, come avete sentito, molto si è parlato di migranti nella giornata di oggi, in quella che precede, in questo appuntamento che precede il Consiglio europeo. Oggi l'Europa in parte ha risposto per bocca del capo della Guardia di Frontiera europea. L'Italia è la nostra priorità. Ad una settimana dal suo insediamento ufficiale, Fabrice Leggeri, direttore esecutivo dell'Agenzia Europea per le Guardie di Frontiera, rompe gli indugi e dice parole che Roma attendeva da tempo. Numeri alla mano. Se gli sbarchi di migranti si sono ridotti in Europa rispetto allo scorso anno, dice, in Italia continuano ad essere stabili, con flussi soprattutto dalla Libia. Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro sostegno al paese. Sostegno come? Anche economico, dice. Il budget per fare i rimpatri dei migranti c'è. I soldi non mi preoccupano. Quello che mi preoccupa è che ci siano le decisioni nazionali per fare i rimpatri. Insomma, quella volontà politica che l'Italia denuncia da tempo. E ancora, rafforzeremo il nostro aiuto all'Italia e quanto l'Italia ci ha chiesto e quanto intendiamo fare. Parole che gelano le polemiche. Ma inutile nasconderlo, in Italia non arrivano solo profughi e anche su questo il neoresponsabile delle frontiere europee parla numeri alla mano. In Italia c'è un alto numero di migranti economici non candidabili per la protezione internazionale che devono essere rimpatriati. Altro punto su cui per intervenire però è la politica comune chiamata a decidere. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche questi temi saranno al centro dell'Assemblea dei Comuni Italiani che si riunisce da oggi. L'accoglienza e l'integrazione dei migranti ed il nuovo welfare dell'inclusione, la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, ma anche la semplificazione amministrativa e la valorizzazione del capitale umano e dell'ambiente. Su questi temi si apre oggi a Bari la 33esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, con il presidente uscente Piero Fassino che cede il posto al sindaco di Bari Antonio De Caro ed è probabilmente in procinto di assumere a Palazzo Chigi un ruolo di guida del coordinamento nazionale per tutte le politiche sull'immigrazione. Al centro della Tre Giorni Barese il confronto con governo, Parlamento e parti sociali sul sistema degli enti locali, sull'autonomia finanziaria e le nuove regole di bilancio. In discussione la centralità dei comuni alla luce della nuova geografia istituzionale, se il referendum costituzionale l'approverà, con la revisione del titolo V e la nascita del Senato delle autonomie locali. Sindaci di tutti è lo slogan dell'Assemblea dell'ANCI, associazione che mette insieme 7200 comuni italiani, salutati oggi dalla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E sul tema dei migranti torneremo più avanti nel corso del nostro giro per l'Italia e nel nostro giro per l'Italia andremo nel comune di Chiusi della Verna, nella frazione di Lappola, 35 abitanti, 20 profughi e gli abitanti che sono un filino preoccupati e stanno protestando. Gli aggiornamenti invece dalla manovra. Ammonta complessivamente a 24,5 miliardi di euro la manovra che il governo esaminerà sabato in Consiglio dei Ministri. Blocco delle clausole di salvaguardia, pacchetto investimenti, misure sociali e pensioni sono le linee generali di intervento illustrate ieri sera in tarda serata dal Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, in Parlamento, dove ha difeso e confermato le stime di crescita dell'1% contenuta nella nota di aggiornamento al DEF. In particolare sono previsti 4,2 miliardi per investimenti pubblici, legge Sabatini, fondo di garanzia per il credito alle imprese. Per pensioni e rinnovo contratto degli statali, la manovra 2017 destinerà 3,15 miliardi. E sull'APE, l'anticipo pensionistico, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, annuncia che la penalizzazione per i lavoratori che scelgono di andare in pensione prima sarà del 5% l'anno, pari al 15% su 3 anni di uscita anticipata. Confermato anche l'aumento per le pensioni basse, che, stima Renzi, potrebbe essere meno di 80 euro al mese. Oggi intanto il Parlamento voterà la nota di aggiornamento al DEF 2016, bocciata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, e si saprà se il governo avrà il via libera per aumentare il deficit del prossimo anno fino al 2,4% dal 2% previsto e liberare così risorse da destinare a spese straordinarie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La pagina degli esteri, iniziando dalla Russia, dalla quale sale la tensione con l'Europa occidentale e gli Stati Uniti. Facciamo un punto con Antonella Scott del Sole 24 Ore. Antonella, buongiorno e qual è il quadro? Buongiorno. Beh, dunque, dovremmo chiarire una cosa. Indubbiamente stiamo assistendo a un'escalation tra la Russia e il mondo occidentale, l'Europa e gli Stati Uniti, prima soprattutto gli Stati Uniti, ora coinvolta anche più l'Europa. mi sembra che viva su tre piani. C'è il piano militare in Siria, dove c'è la guerra vera, c'è quello della diplomazia, in cui appunto ogni giorno noi stiamo assistendo a un... si sale di tono rischiando qui davvero di arrivare a un confronto sempre più serio. E poi c'è il fronte interno russo, abbiamo visto i titoli anche un po' sui giornali che parlano di un clima di guerra in Russia. Ecco, questo francamente mi sembra esagerato, anche un po' ridicolo, cioè parlare di esercitazioni per i civili in caso di attacco, di scorte di grano messe da parte a Pietroburgo. Ecco, tutto questo rientra in una linea voluta dal Cremlino e che magari ecco, gli amministratori locali più zelanti enfatizzano. Di certo c'è che la sindrome della Russia isolata, messa sotto assedio dall'Occidente, ma che sa resistere come è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, ecco, questa è una linea che il Cremlino cavalca. Putin sa che questo gli dà grande popolarità, come è avvenuto con la Crimea, che è stata un po' una prova generale. Questo spiega i titoli a senso unico dei siti online russi, le invettive alla televisione russa. Però mi sembra che quello che è più pericoloso è lo scenario diplomatico. Cioè, dopo il fallimento del tentativo di trovare una soluzione comune in Siria, si è innescata una spirale che rischia di sfuggire di controllo, quindi abbiamo le visite annullate, quella di Putin a Parigi, Lavrov che parla di interessi nazionali minacciati dagli USA, ora la Casa Bianca che promette una risposta adeguata agli attacchi degli hacker. Sullo sfondo della tragedia siriana mi sembra che... lì dove il martirio di Aleppo ormai è diventato un punto di svolta in cui non è più immaginabile in questo momento un approccio comune con i russi, improvvisamente questa spirale può davvero sfuggire di controllo, arrivare a un vero confronto. Questo diventa possibile. E speriamo che non avvenga. Intanto ti ringrazio Antonella Scott per la tua analisi sull'altro fronte, quello iracheno c'è da registrare... scusate, l'innalzarsi del livello di scontro tra l'Iraq e la Turchia. Il presidente turco Erdogan ha portato il suo esercito in un'avventura, in un'aggressione ad un paese vicino dalle conseguenze ignote, dice il primo ministro iracheno Haidar al-Abadi, dopo che ieri lo stesso Erdogan ha ribadito l'intenzione di Ankara di partecipare all'offensiva per strappare all'ISIS la città irachena di Mosul e aveva invitato lo stesso Abadi a stare al suo posto. Gli iracheni resisteranno all'occupazione del loro paese, ha avvertito Abadi in un comunicato. Altro fronte caldo, quello della Libia. I due italiani sequestrati nel sud-est lo scorso 20 settembre sarebbero presumibilmente nelle mani di un gruppo guidato da un uomo algerino legato ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ma che agisce per proprio conto. Tutto questo, secondo fonti della sicurezza algerina, che hanno parlato al sito web Middle East Eye, aggiungendo che il gruppo ha chiesto un riscatto di 4 milioni di euro. L'analisi di Alberto Negri. Dopo settimane di silenzio, improvvisamente riemergono dalle sabbie del deserto libico notizie sui due connazionali rapiti a Gaza il 20 settembre scorso, Bruno Cacace e Danilo Calonego. E le notizie fornite dai servizi di Algeri sono così dettagliate da sollevare persino qualche sospetto. Sappiamo chi sono i rapitori. Un gruppo di qaidisti autonomo costituito da algerini e libici guidati da Abdellah Belakalal, che ha richiesto un riscatto di 4 milioni di euro, altrimenti i sequestratori minacciano di consegnare gli ostaggi a una cellula di Hakim o dell'ISIS. Il gruppo avrebbe chiesto, oltre al riscatto, anche il rilascio di due detenuti, tra cui proprio il fratello di Belakalal, che è in carcere per traffico d'armi. Secondo fonti locali, i negoziati sono condotti da tribù libiche locali di Tuareg e Tebu, sono i mediatori. Mediatori o intermediari? Questo è il vero sospetto che accompagna un rapimento che speriamo si concluda con la liberazione dei due italiani sani e salvi. La cronaca con l'arresto di poliziotti a Palermo accusati di corruzione. Corruzione, concussione e falso in atto pubblico. Con questa accusa sono stati posti agli arresti domiciliari tre agenti della Polstrada. Si tratta di Nicolino Di Biagio, Giuseppe Sparacino e Francesco Paolo Minà, i quali avrebbero preteso denaro da piccoli imprenditori e commercianti minacciandoli di multe e controlli continui se non avessero pagato. In un caso avrebbero preteso mazzette per evitare pesanti multe ai mezzi commerciali fermati sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo nel corso di controlli. In un altro, ricostruito anche grazie ad intercettazioni, sanzioni, i poliziotti avevano fatto invece una contravvenzione al mezzo di una ditta per un'infrazione che prevedeva anche il sequestro del furgone. Per ridurre la sanzione salata, il commerciante pagò e fece pure regali agli agenti. Due imprenditori hanno deciso di denunciarli e così è scattata l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo, Dino Petralia, e l'arresto da parte della squadra mobile di Palermo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E inizieremo in realtà proprio da Palermo, dal quale è arrivata una storia che ci ha oggettivamente colpito. Ed è la vicenda che riguarda l'omicidio di una donna avvenuto nell'aprile del 2014. Ebbene, l'ex marito l'ha uccisa e poi l'ha bruciata. Il PM chiede una riduzione della pena perché a quanto pare lei era violenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del discorso di Renzi davanti alle Camere in previsione del Consiglio europeo. Ha detto tra l'altro che l'Europa è immobile e non all'altezza di grandi sfide, molto dura con lui l'opposizione. Abbiamo parlato a proposito di immigrazione della Guardia di Frontiera Europea che dice che l'Italia è la priorità e dà supporto a Roma per i rimpatri. Abbiamo parlato di esteri con la tensione che sale tra Russia ed Europa e Stati Uniti, ma anche dello scontro tra Iraq e Turchia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da dove abbiamo interrotto la parte delle notizie poco fa con il servizio di Adriana Fracchia sul caso di corruzione a Palermo, e andiamo proprio appunto a Palermo. La vicenda è questa. Aprile 2014, un uomo, Salvatore Maniscalco, uccide l'ex moglie Concetta Conigliaro, poi brucia il corpo e getta i resti in un bidone, aiutato tra l'altro da altre due persone. Che cosa succede? Che questa persona naturalmente va a processo, fornisce una serie di dichiarazioni contraddittorie su quello che effettivamente è avvenuto, e poi succede questo, che nelle ore scorse il sostituto procuratore generale Giuseppe Fici chiede una riduzione della pena da 20 anni a 16 anni di carcere. Perché? Perché la donna sarebbe stata violenta nei confronti dell'uomo. Noi siamo in linea con Maria Grazia Messeri, che era la legale di Concetta Conigliaro, questa donna che è stata uccisa dall'ex marito, che non ha seguito ovviamente questa parte, ma ha seguito le denunce di questa donna in realtà per le violenze subite dal marito. Buongiorno Conigliaro, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, che storia è questa qual è la storia che precede tutto questo? E la storia è una delle tante storie di una donna che decide di separarsi dal marito e che purtroppo oggi conosciamo tutti qual è stato l'epilogo di questa volontà di Concetta Conigliaro. Concetta che decide di separarsi dal marito, che appunto viene da me. Io mi sono occupata dell'aspetto civilistico, quindi della separazione, avevamo intrapreso il percorso per la separazione, ma non siamo mai arrivati neppure alla prima udienza per la separazione. Non siete arrivati alla prima udienza per la separazione, e lei che cosa ha raccontato a lei come sua avvocata? Del resto Concetta aveva sporto diverse denunce nei confronti del marito, denunce che riguardavano appunto liti violente intese non solo verbali ma anche fisiche, e denunce anche per stalking, perché comunque il marito la seguiva in ogni dove, e che purtroppo poi Concetta non ha potuto difendere e dire che effettivamente subiva questa violenza, ma a quanto pare è stato lui a dire che a sua volta subiva le violenze da parte della moglie. Io non mi sono occupata dell'aspetto penalistico, quindi del processo penale, e apprendo solo oggi di quello che è stato la decisione appunto del primo grado e adesso di quella che è stata la richiesta del sostituto procuratore. Quindi il quadro che si è fatta lei nel periodo nel quale ha seguito Concetta Conigliaro è un quadro appunto di complessive violenze domestiche da parte del marito. Esattamente, sì. di violenza e soprattutto dal momento in cui Concetta decide di lasciarlo perché lo voleva lasciare e perché comunque si cercava un accordo, considerato che c'erano due bambine molto piccole e quindi proprio per quello bisognava trovare un punto d'accordo fra i due coniugi, e un punto che riguardava l'affidamento delle bambine, l'assegnazione della casa coniugale, che poi è stato proprio questo il motivo scatenante di tutte le liti più grosse e le violenze come spesso accade esatto. Ed era anche perseguitata, lei mi diceva, cioè c'era un vero e proprio stalking, di che tipo? Sì, perché quando Concetta andava a casa per stare con le bambine, lui comunque si appostava fuori dalla casa, se Concetta usciva la seguiva, se Concetta andava in giro per il paese lei se lo ritrovava ovunque, lui la seguiva per conoscere quali erano i suoi spostamenti e poi glielo diceva chiaramente: sei stata qui, sei stata lì. E quindi insomma lei lo aveva proprio denunciato per questi continui atti persecutori. Io la ringrazio, grazie per il suo racconto, Maria Grazia Messeri, che è stata legale di Concetta Conigliaro, giusto per chiarezza anche nei confronti degli ascoltatori, perché poi le campane che cerchiamo di sentire sono sempre diverse. Abbiamo cercato di rintracciare il sostituto procuratore generale Giuseppe Fici, che ha sollecitato la Corte d'Assise d'Appello di Palermo, perché siamo già in secondo grado, una riduzione della pena da 20 a 16 anni per Salvatore Maniscalco, che è l'assassino di appunto i Concetta Conigliaro. Ebbene, il sostituto procuratore non poteva, era impegnato e quindi oggi non è potuto essere con noi, perché avremmo voluto un chiarimento anche da lui su questa decisione, su questa richiesta ai giudici. Giampaolo Tellini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, è il sindaco di Chiusi della Verna. Dove siamo esattamente, sindaco? Chiusi della Verna in Toscana, in provincia di Arezzo. In provincia di Arezzo, siamo più o meno nell'Appennino sostanzialmente, sì. No? Dove c'è il santuario d'Averna. Dove c'è il santuario d'Averna. Ascolti una cosa, ovviamente avrete immagino un territorio molto sparso, come spesso accade in questi paesi dell'Appennino, con molte piccole frazioni distribuite anche in luoghi, no? Un po' nascosti, e tra queste frazioni c'è Lappola, la frazione di Lappola, dove ci sono 35 residenti e 20 profughi. Ma com'è possibile, sindaco? Com'è possibile? Diciamo che la cooperativa che ha vinto il bando in prefettura per gestire i profughi ha trovato in questa frazione la disponibilità di un privato per prendere in affitto due appartamenti compreso i fondi, due grandi appartamenti compreso i fondi, e sicché lì diciamo c'era la possibilità i metri quadri per poter metterci dentro questi ragazzi. Ecco, questo è avvenuto. E le cronache locali raccontano che gli abitanti della frazione, quelli di Lappola, insomma, sono un po' infastiditi, tutto sommato. Addirittura c'è qualcuno che mette le inferriate alle finestre, cose di questo genere. Che succede? Ora, non esageriamo, diciamo che i cittadini sono abbastanza ragionevoli, io voglio dire anche questo rispetto al numero. Giustamente loro dicono che questo numero è troppo elevato per un paese così piccolo, e loro non è che fanno un discorso di dire non ce ne vogliamo punti, noi dice vogliamo che questo numero sia ridimensionato, e giustamente dice insomma 10-12 persone può anche andare bene, ecco, rivedere un attimino il numero. È su quello che stiamo lavorando in che senso? Cercando di poter trovare un'altra abitazione che sia disponibile ad affittarla alla cooperativa per metterci dai 8 ai 10 ragazzi. In un'altra frazione sostanzialmente, oppure nel paese vero e proprio, insomma. Anche nel paese, sì, anche nel paese, però non è facile trovare la disponibilità da parte dei cittadini, anche perché il nostro è un paese, diciamo, con le case non ci sono case vuote, il centro storico non c'è, tutto il paese, perché noi abbiamo un comune di 102 chilometri quadrati, il comune più grande qui della zona, enorme, territorio enorme. enorme, con tre vallate, che la valle Chiusi, paese dove c'è il santuario, Chiusi Taverna, poi c'è la zona della Valle Santa, la zona più agricola, mentre la Lappola è vicina al Corsalone, che è la zona artigianale e industriale. Qui è nato negli ultimi 30 anni, 40 anni questo paese, che sono tutte case nuove, tutte case abitate. Sono tutte case abitate. Sindaco, per chiudere, mi dice una cosa, perché è un problema che abbiamo riscontrato spesso. Lei è stato avvertito dal prefetto, cioè il prefetto l'ha chiamata a un certo punto per dirle: guardi, c'è un bando, probabilmente l'hanno vinto questi, probabilmente verrà assegnato e vi mandiamo 20 profughi? No, allora il prefetto mi chiamò e mi disse, come ha detto lei, che questa cooperativa ha vinto il bando e che io ero in grado di indicargli qualche appartamento. E io non avevo disponibilità come amministrazione comunale, e allora loro si sono organizzati, la cooperativa, cercando, come ho detto prima, il privato. Ecco, poi il fatto dei 20, che questa signora che organizza e che è a capo di questa cooperativa, credo che sono molti di più quelli che lei nel bando, credo che avesse 30-35 persone. E poi altri l'ha messi in altri comuni, e 20 l'ha messi lì perché la struttura lo permetteva. Quindi comunque il prefetto l'ha avvertita. No, questo volevamo sapere, perché abbiamo sentito anche molte opinioni di sindaci su questo tema, e molti sindaci ci hanno detto: guardi, il prefetto ci passa sopra completamente, cioè assegna il bando, nemmeno ci telefona, magari ci piazza 100 persone in un albergo. Nel suo caso non è avvenuto, e ne siamo lieti, perché è una leale collaborazione tra istituzioni che secondo noi deve esserci. La ringrazio, grazie a Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi Taverna, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa come sempre. Poi, nella seconda parte della trasmissione, vi ricordate, abbiamo parlato nei giorni scorsi con la mamma che ha fatto furore su Facebook postando la pagina del diario nella quale dice: oggi non faccio fare i compiti a mia figlia perché è stata a scuola fino alle 4:30 e poi deve dedicarsi ad altre attività. A Varese stanno andando un po' diversamente le cose, ci sono una novantina di persone che hanno presentato una petizione, una richiesta al sindaco per dire: sperimentiamola la scuola senza compiti come succede in altre parti d'Europa. E c'è un dirigente scolastico che ci sta pensando, parliamo con lui tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: le parole di Renzi in Parlamento, l'Europa immobile, non all'altezza di grandi sfide, dice. Sui migranti il governo ha fallito, dicono invece i 5 Stelle. L'Italia è la nostra priorità, parla così di migranti la Guardia di Frontiera Europea per bocca del suo direttore, supporto a Roma per i rimpatri. Tra l'altro da oggi i comuni dell'ANCI sono riuniti per parlare anche di profughi. Sale in queste ore la tensione tra Russia ed Europa e Stati Uniti, dopo tra l'altro l'annullamento della visita di Putin a Parigi, ed è scontro tra Iraq e Turchia dopo l'annuncio di Erdogan dell'offensiva su Mosul. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, e già vi vedo caldi con qualcuno che al 349-238-6666 via WhatsApp dice: non sono già abbastanza ignoranti i ragazzini, facciamoli pure oziare tutto il pomeriggio. Parliamo ancora di scuole, di compiti, e nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Varese. Varese, la quale tra l'altro era partita un'altra lettera che ha fatto scalpore, quella del papà che ha disobbedito ai professori mandando a scuola il figlio senza i compiti delle vacanze perché gli voleva far sperimentare la vita, per così dire. Arriva una lettera di 90 genitori indirizzata al sindaco Galimberti proprio per istituire e sperimentare delle classi senza compiti, e pare che qualcuno ci stia già pensando, forse Antonio Antonellis, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Varese 3. Buongiorno Antonellis, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci sta pensando davvero? Beh, sicuramente un modello che ci permette di favorire, diciamo, anche nelle famiglie, che diciamo, si riesca a sgravare il tempo dedicato alla vita familiare e al riposo dei compiti, credo che sia un fatto importante. Ma non solo, ma è un progetto pedagogico, non è una cosa soltanto per alleviare l'esistenza dei genitori. Cioè, quindi... non è una cosa, fanno il tempo pieno, non ne posso più, quando tornano a casa non voglio che facciano i compiti, ma è una cosa un po' più complessa, è quello che ci sta dicendo. No, assolutamente, il progetto che è stato sottoscritto anche da diversi genitori è un progetto abbastanza complesso, e noi abbiamo fatto una richiesta, avanzata una richiesta anche al Ministero per un'ipotesi di sperimentazione proprio per la loro complessità. Alcune cose sono possibili farle all'interno del progetto dell'autonomia, siamo in grado già di dare delle risposte ai genitori, ma per il modello che vogliamo sperimentare c'è bisogno ovviamente non solo di organico ma anche di modalità di autorizzazioni, in particolare non so sulle discipline, sulla scansione oraria, ci sono alcuni aspetti che, di cui abbiamo bisogno anche un'autorizzazione per sperimentarla in seno alla scuola pubblica. Al di là delle battute di un ascoltatore, che Luigi da Brescia, con il quale concordo abbastanza, che ci dice i compiti fanno bene ai genitori che ripassano le materie, devo dire da genitore concordo abbastanza, perché sto rimparando delle cose che mi hanno scordato. Al di là della battuta, come si svolge una giornata senza compiti di un ragazzino? È ovvio che è il modello organizzativo della scuola che cambia. C'è, come si può dire, dicevo prima, scansione disciplinare, la quantificazione del tempo, l'organizzazione dello spazio aula e quindi anche l'approccio metodologico, che è totalmente diverso rispetto a, tra virgolette, la scuola tradizionale, che poi non è una scuola tradizionale ma è stata già abbondantemente innovata con i processi di innovazione introdotti con l'autonomia scolastica, con la 107 e così via. Quindi il bambino non vive più la scuola come le ore con la campanella che squilla ogni ora per il cambio dell'insegnante, ma ha una complessità di vita scolastica totalmente diversa, insomma. Cioè l'esperienza educativa pensata in maniera diversa fa vivere anche all'alunno insieme all'insegnante, perché c'è una responsabilità educativa anche dell'insegnante, dei momenti e di frazionamento, tra virgolette, della giornata completamente diversi. Che le devo dire, Antonelli, facciamo così: se poi vi dà il via libera il Ministero, se vi dà il via libera il Sindaco, vedremo come andranno le cose e come andrà questa sperimentazione. Grazie. Me lo auguro. Il problema dei compiti è sempre un problema di attualità, ma non è solo il problema dei compiti. A chi lo dice? Grazie Antonio Antonelli, preside dell'Istituto Comprensivo Varese 3, per essere stato con noi. In chiusura, un'altra storia che arriva sempre dalla Lombardia e nel nostro giro per l'Italia andiamo proprio qua. È la vicenda di una crisi di un'azienda, la Raggi Gilardoni, Raggi X di Mandello, che è stata sostanzialmente commissariata, così possiamo dire, perché la titolare, Maria Cristina Gilardoni, 83 anni, cavaliere del lavoro, era accusata di vessazioni pesantissime nei confronti dei dipendenti. È un caso veramente particolare. Emilio Castelli, sindacalista della FIMCISL, che si è occupato di tutto questo, lei ricorda che altri casi di questo genere? Nessun altro caso a noi risultano così gravi. Io e il collega Anghileri abbiamo preso a cuore questa situazione perché i lavoratori continuavano a rivolgersi a noi per delle situazioni che al momento ad ascoltarle sembravano incredibili, impensabili. Ci faccia qualche esempio. I lavoratori ci raccontavano di oggetti lanciati contro, persone che venivano anche fisicamente, tra virgolette, pizzicottate. Pizzicottate, cioè passava la titolare e dava i pizzicotti ai dipendenti quando gli sembrava che non lavorassero. Questo poi sono le cose che giustamente i lavoratori ci spiegavano e noi chiedevamo di capire che cosa stesse succedendo all'interno di questa azienda. Dopodiché è partita un'indagine della questura di Lecco, per la quale siamo ancora in attesa di capire se sono confermate tutte le denunce che i lavoratori hanno fatto nei confronti di questa situazione. La cosa grave è che in un'azienda che in un momento così importante, dove la sicurezza è estremamente fondamentale, stiamo perdendo fatturato e stavamo perdendo professionalità. Quindi io e il collega Anghileri abbiamo cercato, senza mai riuscire seriamente, a trovare un tavolo per capire cosa stesse succedendo. Senta una cosa, adesso l'azienda è andata nelle mani di Andrea Ascani Orsini, che è il nipote della signora Girardoni, no? È andata in mano al figlio, al figlio Andrea Ascani Orsini, al figlio Marco Tacani Girardoni, sì, come commissario per una durata di 8 mesi. Quindi noi chiederemo urgentemente alla nuova figura che il Tribunale di Milano ci ha segnalato, per aprire subito le relazioni sindacali per capire qual è lo stato, sì, che l'azienda si trova oggi. Sì, perché ci sono state anche le condizioni di recuperare la professionalità che abbiamo perso. Sì, un centinaio di dipendenti, veniva raccontato alle cronache, in fuga dall'azienda. Da dire che ovviamente abbiamo cercato i nuovi, il commissario, i nuovi, per così dire, titolari dell'azienda. Oggi non potevano, so che stasera vi incontrerete, magari su questa vicenda ci torneremo, perché ci ha incuriosito ed è anche un caso interessante dal punto di vista giudiziario, perché è piuttosto raro. La ringrazio, Emilio Castelli, sindacalista della FIMCISL, per essere stato con noi. Traffico, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.